così. E ho detto, no, Sara, è giovane, forse avrà avuto 60 anni, cazzo, se li ha avuti 60. Questo è, ritorniamo al discorso di ieri. Ma avevo anche fatto logia strana, capito? Comunque, cazzo, aspetta quando ti trovo a te, cazzo, avevo dormito tutta la notte, queste cose che mi pungevano le orecchie. Assassino. Te l'ho detto, c'è cosa togliere se proprio no. Resisti, gappa. Gappa, gappa! Come sta andando? Bene? 1 da 3 prova, 1 da 3 stella? E 40, bene, bene. Sì, sì, va bene. Beh, poi te la prendi. Per me male, che lo sai. Aspetta, perché ero nell'altro... Aspetta. Se lo trovo adesso. Se la ciappo gomo. C'è un piedino che balla del microfono. Aspetta un secondo. Oh, c'è qualcosa sotto. Lasciami di... Ah, a posto. C'era un puntino di stagno sotto il piedino del microfono. Aspetta, me lo faceva leggermente ballare. Ma infatti adesso ho letto un altro posto di cartellaccio di Antonello, di un amico stesso, che dice, amico mio, al lavoro e alla vita, quindi confermato che è lui, poveraccio, mi dispiace. Boh, vabbè, non lo trovo io, ho visto un cellulare che ha messo Luca. Boh, oh, yeah, yeah. No, vabbè. Beh, ho fatto quell'operazione, volevo fare quell'altra operazione, ma sta sempre piovendo, insomma, in parte, non è che sta piovendo sempre, però sta piovigilando, non fa a metterla la roba. No, ma scherzi, non ci provare nemmeno perché tanto non attacca. Infatti, un asciutto, anzi, avevo anche qualche dubbio se attaccava lì al primer, figurati. Sai, ma sono due prodotti gommosi alla fine, non lo so. Oddio, gommosi, gommoso no, lei ormai si è impregnato, è proprio attaccato alla... Ma non mi costa niente raschiarlo appena e dargli una sorta di aggrappante. Se tu lo graffi, gli fai vedere il cemento vivo, insomma, diciamo che dovrebbe aggrapparsi un pochino. Sì. Ma qua mi sembra che l'avevano dato sopra la guaina, metti, capito? Perché qua hanno tolto i mattoni e l'avevano dato direttamente sopra la guaina per un'eventuale, capito, perdita, appunto, perché giù c'era la perdita, da lì. Però poi, boh, hanno dato questo prodotto e sembra non ha più perso poi giù, capito? Io lo sto lasciando aperto. Ossia, invece, cos'era? Che si riempiva lo scarico e praticamente usciva da... passava sotto il messicano, capito? E li andava a bagnare sotto. Ah, beh, certo. Ma noi, vabbè, io quando ho lavorato lì a Cosa, a Olbia, che facevamo queste impermeabilizzazioni di terrazzi, quando c'erano degli scarichi così da fare, lo aprivamo il tanto di appena di più del messicano, no? Con lo scalpello gli facevamo al quadrato, poi cosa molto importante che mi hanno insegnato lì a loro insaputa, perché io, sai, anche quando vado d'altra parte a lavorare vedo qualcosa che non mi garba, magari insomma faccio l'ingegno e chiedo, cosa molto importante è il messicano, quando prima di piazzarlo, molta gente lo piazza e ci mette subito la guaina attaccata, no? Invece no, bisogna, a quanto, a questo non so se tu lo sai, mi torna di ruviendi, te qua fuffia! Sì, ma non mi ha risposto, tu lo sai cosa bisogna fare? No, perché era una domanda. Sì, è una domanda. Prima di piazzare il messicano, cosa bisogna fare per poter attaccare la guaina? Dare il primer. No, una cosa molto stupida che anche io sinceramente non lo sapevo, però sai, quando tu vedi quelli esperti del lavoro, ho fatto l'ingegno, gliel'ho chiesto. Ho visto che hanno preso la... Adesso mi dirai, sì, lo sapevo, però non te l'ho detto. Ho visto che hanno preso, intanto ti conosco e direi così, se io l'avevo sincero mi devi dire no, non lo sapevo. Hanno preso la spatola d'acciaio, l'hanno raschiato bene e gli hanno tolto l'acido che ha praticamente il piombo. Ah, tu dici quelli in piombo? Adesso sono in gomma. No, perché loro sono del mestiere da tanti anni fa, no, lavoravano con Nigra, quelli che lavoravo io con la Sami, quell'impresa Pucaccioa, giusto per fare un po' di pubblicità, Sami di Michele Salvatore, senza fare nomi. Infatti non è fare nomi che si sa mai. Ma in piombo non le stanno più facendo neanche? No, non le stanno più facendo, però lo rifanno perché sono del mestiere, capito? Se li autocostruiscono loro direttamente tutte le misure che vogliono, in base alla misura della larghezza e della lunghezza che gli servono, se li fanno loro, hai capito? Sempre quell'impresa lì, senza fare nomi, Salvatore Migliri di Sorso. Ho capito, e io ci sono quelli in gomma praticamente, dai, sono fatti così per durare nel tempo, giustamente, se ci sciogli la guaina poi vicino fa il suo lavoro e magari se li fanno in rame, no? No, le fanno a coso, le fanno a certo. Non sapevo una cosa del genere, mi hanno spiegato che bisogna raschiare e togliere l'acido del piombo perché sennò la guaina apparentemente attacca, però in me che non si dica fa una reazione e si stacca, capito? Hai visto? Quella patina che forma, ecco, dopo poco tempo dici. Sì, esatto. Comunque ci sono fulmini in giro, adesso mi è arrivata una sorta di allarme così, una mancata di, non di elettricità, però una sorta di schede di scarica. Sì, che ha beccato tutta la zona tua lì. Sì, sì. Ma come oggi è il compleanno anche di Tonino Zarretto. Chi? Tonino Zarretto, un mitico della tua voce. Faceva troppo ridere, abbiamo fatto il viaggio assieme a Prima Maior che siamo divertiti. Non ci ho presente. A te le orate ti fanno male? Buona, caspita, poi non mi è bastata, perché era quasi un chilo. Quasi 800 grammi era, che belle, tutte e tre belle. Poi non mi basta più mangiare anche le patate. Pure. Davvero. Capì. Senti che giornata, senti. Secondo me piove. Sì, se continua così, sì, non è che... appena detto, te l'ho visto, sta piovendo. Sì. Muah. Kappa. Dopo faccio una telefonata a un amico, vediamo se mi risponde, che amore io. Vediamo forse, se ne ha voglia di darmi qualche novità, così siamo un po' senza sentirci, poi magari dice che sono io che non cerco. Vabbè, a dopo allora. Va bene, dai, ci sentiamo, salve bene, ciao, buon pranzo. Altrettanto, sono da casa, ciao. Ehi, sono qua ancora, poi più tardi. Allora, mettiamo che faccio una chiacchierata se c'è qualcuno, ciao. Volevi fare fa. Beh, che vi sia uno che canta Scende la pioggia. Ma che fa? Sì, dire, me ne è barriata lei la torre, ciu. Ehi, però... domani non dovrebbe farne. Domani non dovrebbe farne? E poi da ti lo metti, perché non dovrebbe farne? Sì, ma anche l'altro meteo, hai visto che comunque poi di pioggia cosa ne avevamo visto? Tutto lo diluvio che doveva fare, col vento che c'era però ne ha spazzato via tutto, e nonostante tutto aveva messo un bel di pioggia, ma in dire che ha pioggia. Tu dormi un bel allora, mica stamattina ne ha buttato un bel, io alle 5 mi sono alzato a chiudere, a abbassare gli avvolgimi, ma un bel, adesso sta piovendo qua nella parte alta, sta piovendo un bel. Eia, ma aveva messo da venerdì, e cosa ha fatto? Nulla, cosa ha fatto? Bah. Capito? capito, perché c'era il vento che comunque stava, non le faceva fermare per piovere, se no veramente tra venerdì e sabato ne avrebbe fatta parecchia. Ne avrebbe fatta parecchia, sì. E Tino dove è andato a cucinare? Grazie già per parendie. No, a telefonare. No, la prossima settimana ha smesso la stessa cosa, la stessa identica cosa, uguale, però lo sappiamo, no? Oh, lo sai che Emanuele mi ha fatto vendere tutto me? Oh, allora, vabbè, ok. Ehi, tu ho mandato un messaggio, mi sono dimenticato. Un suo amico radioamatore mi ha contattato, gli ha dato il numero, ci siamo sentiti, ha detto per fretta non ne ha, che praticamente quando l'ho smontato il rotore, di avvisarlo che mi fa il coso, il bonifico, che il problema è che io non ce l'ho ricarica, vabbè, o lo faccio fare a te o lo faccio fare a Luca qualcuno, capito, perché io non ne ho di posti pay di quella cosa che si ricarica. Perché per farti fare il bonifico bancario direttamente? Vediamo. Poi mi ha detto delle direttive, mi ha detto sì, per le direttive non c'è bisogno di spedirmele, capito? Per le direttive facciamo un cambio, siccome lui c'ha radio, mi ha detto tu smonta tutto, poi quantifichiamo che cosa vuoi e facciamo un cambio, se no ti do soldi, mi ha detto non c'è problema, capito? E mi ha detto che siccome lui c'ha un amico che viaggia in Sardegna col camion, no? dalla sua città, e fa passare direttamente al prendere, guarda io non ho problemi, l'articolato si può fermare anche sotto casa, perché transitano lì nella mia via gli articolati, capito? Quindi, anziché se deve andare, sì, lui fa Cagliari, fa quelle zone, e allora entra la via l'Italia e poi scende la scala di Ciocca, allora tu le carico tutto e si porta via tutto. Almeno per questo inverno ne è tutto. Sì, lui, la prima giornata che fa bella, gli ho detto, guarda, Salvatore si chiama, gli ho detto la prossima settimana, la prima giornata bella che fa, non me ne frega niente, gli ho detto ne butto giù tutto e ti organizzo tutto, tanto io sono a mansarda, me ne vado in mansarda, ti imballo tutto bene, col nylon, col nastro, la scatola del rotore ce l'ho, c'ho tutto. E mi ha detto ti avviso e poi ti organizzi, se vuoi il rotore te lo spedisco, se no fai scendere e si porta via tutto, lo manco un agio bugato tutto, ma non ne voglio più sapere, anche la verticale ne tolgo, 1510, tutto ne tolgo, non ne voglio più sapere, faccio solo PMR 27 basta. Se che a quelli là le dico venduto, se lo usi, no te lo dico perché mi è capitato già una volta, che una delle, sì, toglio tutto, da poi mi manda un messaggio, questo non si è più visto, lo possiamo rimettere, no, va, t'arrangi. Cioè, è inutile, uno quando dice venduto, le denari deve avere in mano, anche a parole, insomma, siamo bravi tutti, capito? No, lui lascia tutto così com'è, cosa, gliel'ho detto io, il primo che arriva, capito? Ma io fretta non ne ho, perché devo smontare anche il mio, perché me l'ha spaccato il vento. Lui abita lì in continente dove c'è stata quella alluvione, quella tipo una bora, insomma un vento oltre i 120 km/h, le ha praticamente spaccato il cuscinetto reggispinta, quindi il rotore gira tutto, capito? E allora niente. Lui, io direi di fare come stai dicendo tu, lasciamo tutto così, io prima smonto tutto e poi lo chiamo. Una volta smontato tutto, intanto da smontare è, capito come mi hai detto tu, una volta che abbiamo tutto a terra, io lo chiamo, io ho tutto pronto, ti interessa ancora o l'hai già trovato? Se mi dice sì, mi interessa ancora, allora si toglie. Diversamente, aspettiamo. Io ho due persone che mi hanno telefonato, non è che mi hanno telefonato, però mi ha detto guarda se mi mandi le foto reali io te lo compro, però qua cioè rispetto a te appena puoi, se metti le foto si sale, si toglie, faccio fare cioè facciamo le foto, le mando le foto, ok va bene, sì, manda i soldi e poi si smonta, capito? Ecco, così si deve fare, perché a parole te l'ho detto sono bravi tutti e poi, però in due mi hanno telefonato, in due stanno aspettando le foto, capito? Ma sono pronti a pagare. Lu, te l'ho detto, ci ha incasinato il tempo, io non posso salire su, mi tronco il collo, ci scivola perché c'è, lo sai, no? Il cartone catramato con la guaina in alluminio, lo sai quanto si scivola. Se domani c'è tregua, che asciuga un pochino, io 5 minuti salgo e faccio le foto, non ci vuole niente, perché devo salire sopra, direttamente dalla scaletta, da sotto viene male fare le foto, lo voglio fare bene in diagonale, capito, con la direttiva agganciata. E così si manda a chi è interessato. Se domani fa bella giornata io le foto te le faccio. Una volta che abbiamo le foto poi ti arrangi, ti fai fare la ricarica, ti fai fare quello che vuoi, no, non me ne affutti nulla. Ma giustamente anch'io avrei fatto la stessa cosa, no? Ho bisogno delle foto, ho bisogno di vedere, se no come cazzo fai? Per quello, questi sono interessati questi due, però vogliono le foto reali. Sicché. Però se questo qua ti ha dato la parola, vedi tu, valuta tu, se, perché se a me mi contattano cosa gli dico? No, è già stato venduto, perché se tu hai dato già la parola a questo, io non posso continuare a dire è disponibile, capito? O il primo che viene se lo prende, senza foto non si vede, io sono fermo, capito? Metti che, scusa, questo qua domani tu mi mandi le foto e questo qua mi manda i soldi, cosa fai tu? Hai già dato la parola all'amico di Emanuele e non ne dai più. Scusa, questi stanno aspettando solo le foto. Poi se tu mi hai detto ho venduto tutto, boh, io non posso continuare a dire ancora disponibile, quando tu già lo vuoi dare a quello lì. Io, Falcone, buongiorno. Ciao T. No, io gli ho dato la disponibilità, non gli ho dato la certezza, gliel'ho anche detto. Capito? Quindi lasciamo tutto così com'è. Io ne voglio lampare tutto intero, quando c'ho tutto intero là siamo più sicuri. Manda i soldi e io ti mando l'ottore, così non si può fare niente. E beh, muscolo, è una friend nei kiwi. Sì. Oh Lu, guarda se vogliono anche una 10, 15, 20, un altro elemento. Sì, beh, so già anche la marca, meglio. Oh Tino, guarda che adesso c'è anche un altro tuo. Tu sei muscolo, io conosco uno che è muscoli in questo periodo. Chi è? Ginko. Adesso in questi giorni sta facendo muscoli, sicché stai attento, cambiati nominativo. No, lui sta facendo muscoli, che è diverso. E poi si chiama pure di scimmia, voi. Ah, tu pulsa. Telefono un attimo. Sì, fai. Che marca è la tua, la tre elementi? E quant'è? Cosa? E quant'è? Ah, ve la ecco. No. La mia della pick-up V2 come quella che c'ha Walter, Marco. Non ho fatto prendere Marco. Solo che appoggiata su, cazzo, devo. Meno male, le bobine già me le aveva isolate, Luca. Se no, se si riempiono le bobine d'acqua è un bel casino. Devo tutta smontarla, rimettere dentro le scatole, i manuali, tutto, imballarla. E anche quella dei 50 mega della pick-up V2. Immaginate quella, la 3 elementi 10, 15 e 20, la Gio Bagliardo 800 euro, Marco era riuscito a farmela avere a 700 euro. E l'altra, la 5 elementi, era 550 e me l'ha fatta fare 450. Figura dei due, 1000 euro, 1100 euro d'antenne, lampade d'antra, gabbiatura bannuta. Come quella che mi avevi promesso che poi mi hai preso la rotta. Sì, quella lì, sì, no, riparata, ho messo il puntale nuovo della bobina, tutta. Ho già detto di nevare, te la sei vendendo, ho già detto di nevare, battenilla anche di lampada, lascia aperta. È grande, quella che ho io, è 10 metri, un bel grande. C'ha 8 metri di boom, il radiale dei 10 metri è 9,50 metri. Un bel ragione, un bel grande, che ha fatto un errore. Bah. Mettevo una verticale, addirittura la via da Gadda, che non lo so, mi può darci pure che metta una verticale, ma intanto io attività non faccio più, perché tolgo anche la 510. Tolgo tutto, sì, non mangio rotture di balle, né di V, né di U, nuda. Faccio 27 e PMR, boom, basta. Vabbè. cosa me ne faccio, questo è una cosa mia. Comunque, chiudiamo questo discorso. E vabbè, le cose tue le sei tu, io non so cosa dirti, comunque io me ne tolgo. Vabbè, me ne tolgo, vengono a toglierle, poi, anzi, quella, altre le 20 ne ho già tolta. Chiuso il discorso, ok, adesso vediamo se questo mi dà i soldi, vendo tutto, cambio faccio, sicuramente farò cambio con qualche radio, ma vediamo. Dove è andato Luca? No, scusa che sono al telefono qua. No, va bene, devo uscire che devo prendere cosa, ciao, a più tardi. E io, va bene. Oppala, oppala. Ma con quando sta sta radio? No. Non so cosa è detto, no? Troppo? a più tardi, ciao, avanti. Ciao Mari, buongiorno, buongiorno anche a Bacchini. Io pensavo che oggi si mangiava, ragazzi, invece sta già andando a mangiare. Boh, Mari. Adesso oggi mi tocca, oggi Mari, oggi mi tocca. Ah, per quello. Allora tocca anche a Bacchiglio. Bacchiglio lì è. Di turno sono già morendo, di turno sono, capito? Dunque oggi mi tocca e bisogna attendere il dopo. Anche a più tardi, va. Sì, ancora Mari, sentiamo, va, buon presidimento, buon pranzo, famiglia. Ciao Bacchi, ci sentiamo, buon pranzo anche a voi, dai. A stasera, se Dio vuole. Ciao Gio Maria, ciao Marino. Buon pranzo a tutti e due, siamo qui in casa Gio Maria, noi di Aguglia della Russia. Bene, bene, a stasera, se tutto consiglio, ce la direttiamo. Vai, vai. Ok, ciao. Vecchia lei, stacco. Ciao Mari! Ehi! Beh! Ah, già mi sì! Ehi, Avuglia! Ehi! Ehi, che stavo col bastone di scopa! Ah, beh! No, io stavo sistemando i capi qua, perché si piegavano con la finestra, come chiudeva la finestra si piegava. Allora gli ho fatto una piccola traccetta, in modo che passava, che non me le schiacciava, capito? Ah, non ho capito. Bene, bene, ma non dovrete andare giù. Si gioca con la Zitelli. Mi vedo un capo, sai, all'altro io. Oh, yeah. Se vuole venire, vieni. Beh, chi ha ragione? Non... Me lo dici, vergogniamo di c'è presto ancora, perché... allora il pranzo va direttamente a mangiare. Sì, già, so che no, che io. Se uno gliela so, meglio, che mangi no, che io. Ci sta facendo lui, Manuele. I segnali forti, fa quel lavoro, fa, capito? Ma fa, non lo deve fare così. Non lo deve fare. Deve essere chiara la modulazione. No, ma anche te ti sentivo così, anche con quello lì, Ti sentivo anche io così. Non perfetto, perfetto, perché ne siamo visti due passi magari. È come essere in battimento, fortissimo, capito? È perché ho sentito anche a Luca fa quel lavoro. Invece ho sentito anche a Tino, e Tino non lo fa. Qui insomma più lontano li fa. Non lo fa. Quello che sto vicino lo fa, capito? E quello veramente bisogna attenuarlo, capito? Ciao Mario, io ti sento bene e siamo attaccati. E cosa è? Allora lo devi sapere pure a me. Pure a me. E mi ha detto, mi ha detto. Ne manca un pezzo. E si abbassano. Perché allora dovrebbe fare pure a me la stessa cosa, Ciao Mario. Ma ciao, ciao comunque, buongiorno. No, ma mi sono accorto, capito, perché non c'è niente la parecchia, è solo i segnali furti, capito? Per esempio, Tino, a Tino non me lo fa, a Claudio non lo fa, non lo fa né a Gianni né a Giù, solo quelli di vicino lo fa, solo perché vicino, e magari Luca, vicino, ma anche a te, Mino, Manuele, anche a adesso lo vorrei provare anche con te. Capito? Adesso provo, lo accendo e vedo un po' fare con Tora per forse ce lo fa tutti e due. Prova, dai, Gio Mario, non c'è problema. Allora va, datemi 5 minuti, va, riprendi il tocco. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Ma cos'è che ti fa? Abbattimento ti fa, Gio Mario. Manuè. Cos'è? Dimmi. Cosa gli fa? Abbattimento. Perché ieri c'è che mai sentiva tutto a tratti. Dice che quelli più forti li riceve così, tutto a tratti. Non lo so io. Non lo usaccio, o è l'apparecchio. Non lo so, perché io lo stesso, ce l'ho vicino a Gio Maria, lo sento bene. Allora lo devi scappare pure a me, che problema. È così. Forse cioè perché c'era qualche abbattimento sul dal 10. Non lo so, perché non lo so, dice che lì lo sente tutto a tratti. No, a me mi ha detto, dice, stavo ricevendo a tratti a me. E gli altri mi ricevevano bene. Io ci ho messo, io infatti ho detto adesso metto la radio a vedere. A vedere come ascolta, come riceve lui. La propagazione anche ieri, Ma non c'entra nulla quello, la propagazione non c'entra nulla. Ma c'era anche abbattimento di qualche canale, qualcuno vicino, perché me lo sentivo io ieri. Quasi pure, adesso provo a attaccare la radio, vedo un po'. A me male mi senti, a tratti mi ascolti. No, io ti ascolto benissimo, sono con il coso, sono col grande. Cazzo, a voglia, andava. Oggi chi doveva aiutarsi a dar riposo? Sì, ma bisogna fare accenno ogni tanto, non lavarli scatolati, a chi dopo c'è la rimeggia. No, già è qua. Oggi sto usando questo, proprio qui che devo trattarlo. Aspetta un attimo. Dottore. Ehi, a Gio Mari. Prova a mettere il microfono normale. Il mio? Sono con il grande, mi. Ma non sei con l'ultimo? No, con il grande sono, con il 140. Va bene, ma lui è tutto, a te ti sento perfettamente. Perfetto, perfetto. Dottore, c'è sempre quella una cosa del genere. Ma quello sono io che lo faccio. Quello sono io. No, non è che disturba, ma è così, capito? Adesso a Mario invece lo sento perfetto. No. Sarà cosa come mollo il microfono molte volte. Ebbene, non ti verrebbe attaccare l'altro un attimino? Sì, devo attaccare un microfono, aspetta. Dai, è una propaga. Guarda, adesso c'ho il microfono normale qua. Faccia la posizione un attimino. Perfetto. Perfetto, Perché non deve essere perfetto, non oggi compreso il e lo sei. No, ma lui, vedi, c'è sempre quella una cosa del genere, capito? E tu sei invece, sei perfetto, Manuel. E poi, ma io te lo sento bene, mi chiamavi. Cosa ti dico? Allora è la parte mia, boh. Oh, ma parlare, to? Ma questo è l'ultimo, con questo qua. No, la radio è chiara, Gio Mari. Se no ve la vedo di più subito, dici a Mari, Non c'è nessun rumore sotto, Io l'ho detto come l'altra volta, to. Detto come l'altra volta, che. E allora la parte mia, cosa vuoi che dica? Oh, c'è il microfono normale qua, sono attaccato. Sono attaccato il microfono normale. Dai che mi devo staccare, che devo scendere al ghetto, Gio Mari. Devo andare al ghetto, dai, ci sentiamo quasi a mezza sera. Comunque state uscendo bene. State uscendo bene tutti e due. A te lo ascolto benissimo, senza rumori, senza nulla. Guarda, guarda. Non mi interessa più tanto, però a voi vi sento tutti bene e a Toro lo sento così, tutto lì. Vuol dire che è la ricezione mia che fa quell'effetto. Vabbè dai, continuate, io mi stacco, dai. Ciao a Toro, ciao a Gio Maria, ci sentiamo casomai stasera. Sì, ok, ciao Manuele. Ciao Toro, già ci sentiamo dopo là, dai Toro. Sì, ok, ciao Gio Maria, ciao Manuele. Buon pranzo, quando vai al ghetto. Cosa cambiato al centro, tutti e due. Ok, ciao. Cos'è cambiato, Gio Mari? Adesso ho cambiato, capito? Qua non disturbo, capito? Perché là disturbo. Andava, andiamo bene. E adesso come mi senti? Adesso mi sento bene. Forse il segnale è più forte di tuo, capito? E fa quell'effetto, la ricezione. Capito? È la ricezione, non la trasmissione, è la ricezione. Adesso prendi quella. Ma non è sentivo perfettamente. Ma che te, solo che c'è questo. Una cosa del genere, ti ricordi quando faceva col lavoro l'altro giorno che ti stava dicendo vicino? Ecco, ti sento così, poco di meno dell'altra volta però. Gio Mari, non lo so. Non lo so perché, questo è il grande che sta operando adesso. No, ma infatti anche con quell'altro faceva quel lavoro, capito? Anche, capito? Allora la ricezione mia, perché guarda, stamattina si dice a Lucca il segnale era un po' scarso, il segnale era fortissimo perché siamo vicini a Tino, che era più lontano, lo sentivo perfetto, Claudio lo sentivo perfetto, a Giulio lo sentivo perfetto, scatta a tutti, no, tu magari eri vicino, mi faceva questo lavoro di ricezione, capito? E quando parlavi faceva questo difetto, ecco, tutto lì, ma forse dalla parte mia so. Gianmario, forse perché siamo troppo vicini siamo anche. Forse per quello che te lo fa. Ehi, hai il segnale fortissimo. Ma lui prima lo sentivo sempre un po' strano, mentre che oggi invece lo sentivo pulito. Ti sentivo con quel difetto, capito? Ma lo ripeto, deve essere la ricezione via. Ma da un apparecchio all'altro forse lo fa. Ehi, da un apparecchio all'altro. Ma cazzo. Mi sento male a te, scusa, se vorrei sentire Malattino, Claudio, eccetera, capito? Giulio. Invece lì sentivo perfetto. Va bene, Giovanni. A futidini, già non è nulla. Un attimo, tutto. Fate sapere che fate lì. Fate bruttichette, che volete, da una all'altra, ciamba, cambia. Infatti io non ci sto più badando a questo ormai, a queste cose. C'è qualcosa? La Sandagucci. Ma con gli altri io ho provato a cambiare apparecchio ieri sera, capito? Quando te l'ho detto. Ho provato a cambiare apparecchio, ti sentivo perfetto, senza nessun rumore. Cazzo, attaccavo questo qua e me lo faceva, capito? Ecco quello che diceva, perché ho chiesto quel controllo al che te lo sotto? Stai dicendo male, questa è da parte mia. Vuol dire c'è qualcosa in recensione con l'apparizio. Vabbè, ma non è nulla, già si metterà a posto da solo. C'è stato dai segnali troppo forti, capito? Perché me lo fa dai segnali forti, ecco, tutto lito. Perché agli altri sentivo perfettamente, tu magari sei più vicino, arrivavi benissimo, capito? Le segnali forti mi fa quel lavoro, per esempio tu, il tuo me lo faceva, gli altri no, perché erano più lontani. Aspetta un attimino che attacco quell'altro apparecchio, l'899. Adesso sto usando quello lì, adesso. No, ma me lo fa con quell'altro apparecchio, sto l'ultimo, capito? Con quello che sappiamo noi, capito? Guarda con questo a vedere. E adesso no, non si viene, mi fa cambiare questo. Adesso me lo sono passato qua e va bene. Perché con quell'altro io dall'altra parte distruggo, capito? Mentre con questo lo distruggo adesso. Adesso sono con l'899 adesso. Infatti. No, lo sto usando anch'io adesso mio, ma ho attaccato quello. L'899? Le mangiano, mi sono convenire a tutti. No, ma questi vanno bene, perfetti, capito? Magari perché il segnale non è forte come quell'altro, capito? E qua sì, perfetto sto, perfetto. E questo è normale, dai 4 watt e buh. Tutto per quello, mentre invece l'altro è più forte e mi fa quel lavoro. Però ve lo faceva il tuo però, sugli altri no. Sì, Emanuele vicino, ma pure oggi non me lo fa, prima me lo faceva, adesso me lo fa. Se soltanto con i segnali forti ti fa sentire male. Ehi, cane, comprendo, insomma era bastone da terra le malattie, ti puoi immaginare, era bastone da terra, per carità, ragazzi. Vabbè, cose che succedono sono ai bimbi. Eppure apparecchi ne risentono qualche volta. Ehi, cacca, noi siamo a due passi, si deve usare e 4 watt e basta, se proprio con 4 watt stai tranquillo che arriviamo dappertutto ugualmente, però se più di 4 watt la questione uno o un mio o quello qua caso che irricchezione sembra più strana la radio, capisci? Da domani mi uso questo qua, mi uso quelli là, lascio un po' fermi, me ne idrato a fine guida. Okay. E infatti questa mattina c'era Pino, c'era Luca, anche Luca, no? Lo sentivo insomma più normale, ecco. Ok, un attimino che tratta gente, insomma, un attimino. Sono qua. Ecco, ci sto. Dimmi, Gian Maria. C'era Diego Pochino, che sta cominciando a andare da solo, no? Caccia, va, se ci metti a ciappa in faccia, Ah, il bit nemmeno è diso così. Poi si entra in cosa in mano, uia, e la distruggo. Lasciate far presto, tutti si piglia, ci va si fa guai, quasi terrore. Infatti, terrore così, e purtroppo i bambini piccoli, gli attenzione. Perché ancora non capiscono, capisco, per cui, però bisogna stare a presto, vai. A questa età quando mi sono a camminare soli sono pericolosi, ripeto, perché trovo tutto quello che trovo non si faccia, allora bisogna stare sempre appresso, così avanti mi è andato bene, ma non mi vuoi, oggi non mi vuoi, mi vuoi essere, oggi non mi vuoi, forse anche per un papà. Ecco, bagosa. bambini, Giulia, bisogna accontentare sempre. Vabbè, già non abbiamo avuto i figliori, io pure minore, per cui cazzo, ti fatiagirà o sei figli, fatiagirà, ma purtroppo magari tu forse la mi figlio. Ma no, da meno io non me ne ammento, però so che ero terribile quando ero minore. Ma sono tutti bambini così, sono tutti, quell'età è normale, no, cazzo, come per voi, drumiti, io ne ho avuto 3 nipoti, cazzo, stanno da dire su fastidio, mai, cazzo, gli altri bambini ne ho fatti i nipoti. Ma questi 3, cazzo, guarda, non davano su fastidio nulla, come li lasciate si fermava, però non fate niente, troppo bravi, mentre l'altra è di muori. Ma dice che nascinava, sono ancora peggio. Oggi è peggio sì, anche gli altri fatti di su di qua. Sì, infatti, è così, infatti. Allora, quello è. Via, che andiamo a mangiare, questo va. Cerchiamo stasera, là, che è tutto fa brodo. Buon proseguimento, buon pranzo, ci sentiamo. E altrettanto, Gian Maria. Ciao, ci sentiamo stasera. Bye bye.